En fait, on voulait raconter deux choses, c'est-à-dire rencontrer des vraies sœurs et les chercheurs. L'idea nasce dall'intento di raccontare due cose: incontrare quelli che sono i reclutatori, cercarli e allo stesso modo cercare di comprendere se questi potessero essere messi in relazione con gli attentati di massacri compiuti dallo Stato islamico negli ultimi anni. Per fare ciò abbiamo creato profili per due nostre giornaliste, molto veritieri ed attendibili, in linea quindi con quelli di due giovani donne francesi che decidono di partire e raggiungere la Siria. Che tecnica avete utilizzato per prendere queste testimonianze? Come il film testimonia, la tecnica che abbiamo utilizzato è purtroppo molto semplice e immediata. Dal momento in cui si entra su queste reti virtuali di reclutamento, altre donne dette sœurs, sorelle o degli uomini testano se siete una vittima potenzialmente facile o meno. Al termine di questo processo, voi potete davvero essere parte di questi canali, utilizzando Telegram o altre applicazioni criptate. E come funziona davvero il sistema di reclutamento? Inoltre, le testimonianze da voi raccolte sono piuttosto di donne già dall'origine parte del sistema oppure piuttosto donne obbligate da altro e convertite ad esso? Molte donne occidentali, per l'appunto, decidono di convertirsi e diventare parte e martiri della jihad. Allora, il y a toutes sortes de profils. Il y a la fille complètement paumée. Ci sono tutti i tipi di profilo. C'è la donna completamente oppressa, che cerca quindi sfogo anche rispetto a fattori più banali, ad esempio perché l'Islam vieta loro di bere alcol, come una delle storie che abbiamo incontrato, e quindi inevitabilmente cadono vittime di questi reclutatori che le affascinano, promettendo loro un po' di avventura in Siria, quindi partono per 6 mesi. Ci sono poi anche profili di donne che sono invece già dal principio, per natura, attratte dalla violenza. Quindi c'è da precisare che non parliamo solo di vittime, come si può pensare. C'è la donna che si innamora di uno degli uomini del sistema e che, promettendole il matrimonio, la spinge a partire. Ci sono molti profili e spesso il processo è molto veloce. Le prince charmant, un vaillant chevalier qui sauve des gens. Voilà, il y a plusieurs profils. Parfois ça va très très vite en plus. Avete già pensato ad un seguito di questa vostra inchiesta? Il y en a une déjà parce qu'il y a une web série. Il y a une web série qu'on a fait juste après. Sì, c'è in realtà già una serie web realizzata subito dopo il film per vedere e comprendere se, una volta interagito con loro, le stesse avessero o meno cambiato idea, se avessero cambiato il loro modo di fare o numero di telefono, ma niente di tutto ciò. Una volta che si entra nel sistema, abbiamo dimostrato che si ha anche la possibilità di entrare in contatto con altri membri dell'ISIS, anche più importanti del principale reclutatore francese, Rachid Qassim.